secondo il programma adesso abbiamo le domande prima dell'intervallo, dato che qualche relatore deve lasciarci. Allora, per non perderlo, per non perdere le domande alle relazioni che si sono avute sinora, invece di avere la terza relazione, lasciamo 10 minuti, un quarto d'ora per le domande alle due relazioni e poi facciamo una pausa di un quarto d'ora. Se ci sono domande, perché se non ci fossero... Prendiamo un caffè. Sì. Professor Miech. Io sono stato molto interessato dalla relazione della professoressa De Pascal. Sono un po' sconcertato, devo dire, anche sul piano cronologico, che Piero Martinetti sia rimasto per quelli che si parlerà un'altra volta. Francamente, non lo so, del panorama della filosofia italiana del Novecento, e mi pare anche prima di quella pubblicazione del Gemelli del 24, mi pare che una persona che specificamente, non solo in generale, ma proprio nella religione in Kant, sia Piero Martinetti, di cui abbiamo poi appena anche celebrato. Poi, non so, probabilmente questo rientra nell'economia teorica della sua vita. Io esprimo un certo sconcerto dal fatto che questo non si sia potuto parlare subito. Prendiamo, ecco, venga. Prendiamo tutte le domande in modo da fare poi una risposta più esauriente possibile. Se ha bisogno del microfono, si accomodi. Sono Cantillo. Professor Cantillo. No, la mia è un brevissimo intervento, così, non è tanto una domanda quanto una brevissima integrazione, se il mio amico carissimo Cacciatore me lo consente, una piccolissima integrazione per colmare una lacuna, tra l'altro, a cui farò, diciamo, porrò rimedio negli atti a proposito di Ernst Troeltsch, che è rimasto fuori da questo discorso. E quindi riguarda il rapporto Wittgenstein-Troeltsch. Cacciatore giustamente ha visto un punto di affinità, e questo è indubitabile, però l'interpretazione che Troeltsch dà di Kant, in particolare dello scritto di Rodin, si differenzia forse da Wittgenstein proprio sul punto della lettura della filosofia della religione, ma in particolare dell'opera di Rodin, in termini appunto di religione morale. Cioè Troeltsch sottolinea, mette in evidenza nella sua interpretazione un approfondimento dal suo punto di vista della concezione kantiana della religione, perché vengono in primo piano in Die Religion il problema del male radicale e il tema della comunità etico-religiosa. E quindi, per essere molto breve, Troeltsch mette in evidenza l'elemento storico che, attraverso l'introduzione del tema del male radicale, e quindi il tema di un capovolgimento nella rigenerazione come superamento del male radicale, e quindi il tema del mutamento e il tema della storia. E attraverso il tema della comunità etico-religiosa, anche qui, l'elemento storico assume, sulla linea, credo, di Schleiermacher, un'importanza maggiore, in quanto non vi è religione senza comunità. Non vi è religione positiva senza comunità, ma non vi è neppure possibilità di una religione razionale che non trovi poi la sua concretizzazione, la sua manifestazione nella religione positiva. Anzi, in fondo, la religione razionale, nella prospettiva di Troeltsch, è sempre il risultato di uno Zurückgehen a partire dalla religione positiva. Era solo questo punto, diciamo, di maggiore articolazione nel discorso, se vogliamo dire, del historismus a proposito del tema di religione. Quindi Ecco, me la assimilerei, Truch, alla lettura del Kant di De Rudigion in termini di idealismo morale, come dite si esprime nel passo che tu ricordavi. Ci sono altri interventi? Bene, non ci sono altri interventi, allora... Allora io, vabbè... Rispondi per fuggire. No, vabbè, ma c'era tempo anche per qualche altra domanda, non esageriamo, quindi insomma non... Niente, ovviamente accetto l'integrazione di Cantillo, ormai siamo... considerati come vicendevoli integratori di una certa lettura dello storicismo, quindi insomma anche non ci siamo messi d'accordo, ovviamente. No, l'accetto è non solo l'accetto, ma come dire, la sottolineo nella misura in cui come ho tentato di far vedere alla fine della mia relazione, dite alla fine deve portare avanti, diciamo, la sua critica agli elementi per lui astratti, diciamo, e formalistici della tradizione kantiana, perché deve costruire e fondare la sua critica della ragione storica. È uno degli elementi fondamentali di polemica e nei confronti di Kant, quindi da questo punto di vista si capisce perché, a differenza di Truch, non insiste sull'elemento storico, insiste invece sull'elemento psicologico, cioè il fondamento, diciamo, della religione è un fondamento, diciamo, è la inner Erfahrung e quindi, diciamo, la connessione psicologica che si pone a base, che era invece, come tu ben sai e come ci puoi ben insegnare, che era invece al contrario il tentativo di Truch di trovare in questa lettura dell'elemento storico della filosofia della religione di Kant proprio l'elemento di mediazione tra il dato metafisico astratto e il dato psicologico, insomma. Quindi da questo punto di vista non solo accetto l'integrazione, ma tendo anche di spiegare, come ho tentato di fare, perché poi alla fine Diltei non abbia seguito anche lui questa strada, nient'altro. Quanto a me, sono molto dispiaciuta dell'obiezione, perché effettivamente non c'era nessuna volontarietà. Denuncio l'errore, cioè ho sbagliato i tempi, nel senso che quello che vi ho detto vi assicuro che doveva essere l'introduzione. Ma perché l'introduzione? L'introduzione perché i riferimenti, però questo lo avevo precisato fin dall'inizio, i riferimenti all'opera, sullo scritto, sulla Religionsschrift, sono pochi, non particolarmente interessanti, li eliminiamo. Non particolarmente interessante rispetto agli altri, perché poi non è neanche vero, in realtà mi pareva anche di un qualche interesse poi invece inserirli in un ambiente culturale. Comunque sono pochi, sono delimitati, diciamo così, sono facilmente individuabili, è facile anche tracciarne la cornice a Cadia, a Paulsen, le cose che ho tentato di dire, dopodiché però si affronta il discorso davvero. E allora il professor Miegge giustamente obietta, ma lo scritto la religione secondo Kant sta qui, no? Uscito nel volume Religione e Fede, quello anche cronologicamente doveva stare dove lei non l'ha messo, è vero. Però la mia intenzione, io poi non lo so se l'ho scritto bene, ma insomma spero che poi dopo si possa anche leggere, la mia intenzione per personaggi come Martinetti, ma non solo per Martinetti, la stessa cosa, lo stesso problema ce l'ho avuto con Carabellese, cioè per personaggi per i quali, per fortuna nostra, ma che ci hanno lasciato tomi di 500 pagine ciascuno, è stato non di estrapolare le due pagine sulla religione, per Per Carabellesi più complicato ancora, perché doveva essere sull'esistenza di Dio, ma non era neanche, allora era un altro anche il riferimento. Invece che fare o un discorso solo cronologico o un discorso di mera estrapolazione, tentare, ripeto, un medaglione dei personaggi tagliati a seconda. Allora, devo partire dal capitolo su Kant dell'introduzione della metafisica, 1904, ha ragione lei a dire che cronologicamente ci stava, e devo finire con il volume su Kant. Fra l'altro c'è anche un motivo di ordine teorico, vi rubo un minuto ma mi dovevo giustificare, c'è un motivo di, anche un motivo di ordine teorico, perché io, che ho per altro verso molto, sono rimasta molto affascinata per altro verso della lettura di Martinetti, che do sempre da leggere ai miei studenti come un versante dell'interpretazione kantiana. Il capitolo, cioè il libro di Feltrinelli, rientra nelle bibliografie. Ecco, però da quel libro i miei studenti non capiscono bene, perché in quel libro si legge che la filosofia, adesso se avete un attimo di pazienza, perché poi io Martinetti a memoria non lo conosco, un momento soltanto. Questo è un bel guaio, perché se non ritrovo la citazione non riesco a dire quello che volevo. Sì, si parla delle, no, non si parla ancora delle sfere, o se ne parla appena. Nel libro intitolato Kant, del quale in questo contesto vanno segnalati gli ultimi capitoli dedicati, della parte dedicata alla morale, e il capitolo finale dedicato alla religione, si dice, cito: posizione singolare quella di Kant a proposito del problema della libertà. Esso, problema della libertà, segna la conclusione della sua filosofia morale e il passaggio dalla morale alla metafisica. Allora, arrivavo ad una parte di questa esposizione, ora gli manca la testa questa esposizione, cioè gli manca il cappello, ma non importa. Qual è il rapporto fra morale, religione e metafisica? In un luogo della sua monografia, appunto, Martinetti dice, pagina 181, la morale kantiana è una morale religiosa, anzi una religione morale, che è una gran bella definizione, però non mi spiega assolutamente niente, cioè non so cosa voglia dire. E per capire meglio cosa Martinetti vuol dire, visto che voleva dire qualcosa, devo andare a cercare una cosa che è cronologicamente più distante, ma che però mi torna in questo, è che non poteva essere cronologicamente posta altrove, cioè devo andare a cercare quell'articolo giusto appunto intitolato La religione secondo Kant, il quale con le sfere concentriche una più ampia mi spiega e mi articola molto bene il rapporto fra morale e religione. Ecco, ma qui mi si apre un discorso che i 40 minuti trentini non mi consentono di fare. Vedo il primo Pellegrino, il professor Pellegrino, che ha alzato per primo la mano, lo invito ad accomodarsi al tavolo della... Sì. Prima è bene che con coloro che sono messi in aula a fare le domande. Ah, ma io sono qui disponibile, guarda, lo sai. Ecco. Sì, accomodo. Sì. Le prendiamo tutte le domande, Vorrei capire quante sono anche, così poi ci regoliamo, perché una, due almeno, va bene, tre. Ecco, io ringrazio Antiseri che ha rinfocolato un antico dibattito che noi abbiamo fatto per tanti anni. Io non vengo da Padova, mi sono laureato alla Cattolica e come guida proprio per lo studio di Kant ho avuto anzitutto Lavagni Rovighi, professoressa Lavagni Rovighi, che ha scritto diversi volumi, tra cui un'introduzione a Kant che è molto positiva in quanto al valore della filosofia kantiana. Io l'ho sentita nelle lezioni all'Università Cattolica, certamente fa delle critiche a Kant dal punto di vista della sua filosofia, però ha valutato in modo molto positivo la posizione kantiana, e io proprio dalle lezioni di Lavagni Rovighi ho avuto l'impulso per laurearmi su Kant, E inoltre ho avuto anche come professore il professor Mariano Campo, che è stato qui ricordato. Mariano Campo ha dedicato non anni ma decenni allo studio di Kant, in particolare di Kant precritico. Io l'ho seguito nelle sue lezioni e anche lui ha dedicato tanti anni a Kant, perché era convinto che Kant non era affatto un corruttore, non era per niente una persona che aveva tradito quelle che sono le basi, si può dire, della filosofia cristiana, perché questi due professori mi hanno insegnato che c'è un punto fondamentale in Kant, che è la realtà dell'uomo in quanto è trascendenza sul mondo. L'uomo è trascendenza sul mondo. Questo è un punto cardine in Kant, cioè l'uomo è aperto su Dio, e questo per noi è fondamentale, non solo per un cristiano, ma per qualsiasi persona che ha un animo religioso. Un altro punto che mi hanno chiarito è l'aspetto del male, il problema del male. Il male è qualcosa di così inserito nella natura umana che deve essere combattuto. Come combattuto? Certo, le vie possono essere diverse, però anche lì Kant, come mi hanno insegnato questi maestri, non era da considerarsi un corruttore. Non avrebbero insegnato l'università cattolica, l'università che in definitiva è sotto il controllo della Santa Sede, con un insegnamento che si riferiva a Kant, se Kant fosse stato così un personaggio da scomunicare completamente, come l'hai presentato tu. E inoltre io mi sono laureato con un altro professore che è stato il relatore fondamentale della mia tesi su Kant, e questo professore, che era Olgiati, era un neoclassico. Lo diceva lui, ha scritto anche un volume sulla metafisica neoclassica, però a noi insegnava, insegnandosi per 2 anni storia della filosofia, che bisogna trovare l'anima di verità in ogni autore. E io ho cercato l'anima di verità in Kant, perché ho seguito i miei maestri. Quindi tu, secondo me, hai presentato solo un aspetto della lotta contro il kantismo, che è di una parte della cristianità. Dobbiamo tenere presente poi che la cristianità cattolica ha come direttive fondamentali i concili ecumenici. L'ultimo concilio ecumenico non dice assolutamente nulla che bisogna essere per forza tomisti. Questa è un'invenzione tua, l'hai inventato tu, non è affatto vero, non è affatto vero. Il concilio ecumenico Vaticano II dice che bisogna stare sulla base della Bibbia, della tradizione dogmatica, non dice che bisogna essere tomisti. Tant'è vero che nel Medioevo, l'epoca d'oro della cristianità, c'erano tomisti, agostiniani, francescani, che combattevano tra loro, perché non è affatto vero che c'era il dogma del tomismo. Certo. Questa è un'invenzione tua. Hai preso qualche passo di qualche papa, il quale non è il concilio ecumenico, perché noi seguiamo il concilio ecumenico. Tu in questo hai dato una visione completamente sbagliata della produzione cattolica. La produzione cattolica non è questa. Vorrei dire poi che contro le posizioni kantiane non ci sono soltanto i tomisti rigidi che poi io non li ho trovati alla cattolica. Io non ho trovato alla cattolica tra i miei professori i tomisti rigidi che vedevano in Kant una persona da combattere a fondo, da scomunicare. Devo dire che, per esempio, io mi sono trovato molte volte a Monaco di Baviera, dove vado quasi ogni anno a studiare, con Campo, che là cercava quelle che sono le fonti fondamentali. Il Campo mi ha indirizzato allo studio di Max Scheler. Max Scheler non è un tomista, anzi dice chiaramente che lui non vuole sapere del tomismo, eppure attacca a fondo Kant, in nome di una visione fenomenologica aperta ai valori. Cioè, si possono raggiungere i valori con quello che lui chiama di là dell'intelletto della volontà, il sentimento, se non si è chiusi come Kant ai valori. E questo lo dice Scheler. Io non dico che Kant è chiuso ai valori, però dico che Scheler, secondo me, che non è affatto in posizione tomista, perché lo dice chiaro che lui è antitomista, però è in una posizione che si può dire platonico-agostiniana. È un fenomenologo il quale è convinto che non si può accettare Kant senza, senza cadere nell'anticantismo fazioso, proprio perché è assolutamente necessario cogliere al di là dell'intelligenza e della volontà, come Kant ha con acutezza visto, tutta la sfera del sentimento, che è la sfera con cui noi cogliamo i valori. Io sono convinto, ho tradotto l'Eterno nell'uomo, Fomeligen Menschen di Scheler, e sono convinto che Scheler lì ha ragione. Scheler, ripeto, non è un tomista ma è anticantiano, perché è convinto che Kant non dà tutto il valore al sentimento e al sentimento dei valori come dovrebbe essere. Un'ultima annotazione. Siccome qui tu accenni alla faccenda politica anche, io qui ho il sunto soltanto, che non ho il testo tuo che leggerò volentieri, tu dici che appunto per ragioni politiche i cattolici tedeschi hanno sì, indubbiamente i cattolici tedeschi hanno apprezzato Kant per la sua visione anche di tipo sociale e comunitario. E bisogna dire che i cattolici tedeschi hanno visto in Kant un uomo che ha lottato per la libertà, che ha posto a fondamento delle leggi e della Costituzione la libertà contro ogni totalitarismo. Bene, io ho sentito con grande gioia l'altra sera dal professor Inske che quando il 20 luglio del 1944 è stato fatto l'attentato contro Hitler, purtroppo fallito, migliaia e migliaia di tedeschi sono stati torturati e uccisi. C'erano tre fondamentali gruppi: il gruppo cattolico, il gruppo protestante e il gruppo kantiano. Ecco, io sono convinto che un vero cattolico che ha capito il valore della persona e ha capito che noi dobbiamo andare d'accordo con chiunque dà valore alla persona, ha capito anche che Kant non è un pensatore debole. Kant è uno il quale vuole fondare una metafisica, e fino all'ultimo. Io ho studiato l'Opus Postum, le ultime pagine sono tutte una ricerca metafisica, fino all'ultimo. Anche nei Fortschritte der Metaphysik lui cerca una metafisica, e se Kant è un metafisico non è un pensatore debole, è un pensatore forte anche lui, ma un pensatore forte e aperto, non fanatico, non che crea dei fantasmi che non esistono, il fantasma dei cattolici arcitomisti, quello che hai creato tu adesso, di una chiesa chiusa nel puro tomismo, che è una frottola, ma finiscila con questa frottola, è una gran frottola che tu metti in giro, non è vero, questo che tu dici è una falsità. Prendi il Concilio Ecumenico e vedi se ti dicono che bisogna essere per forza tomisti. Ma un cattolico può essere certamente anche oggi un kantiano, perché Kant è un... può essere un kantiano, sì, può essere un kantiano, perché Kant è un pensatore aperto. Se uno prende il libro di Bergson sulle due fonti della morale della religione, si accorge che Bergson ha capito che c'è una religione chiusa e statica, che è quella dei cattolici che hai rappresentato tu, che purtroppo ci sono. Ci sono, eh? Sì, ma ci sono, ma non è la Chiesa Cattolica per Bacco, tu individui la Chiesa Cattolica con quello. Alcuni cattolici in tutte le categorie sociali ci sono i chiusi, gli statici e quelli che sono aperti. Ora, per conto mio, Kant è un pensatore non debole, per me è un pensatore forte, però aperto. Quando un uomo si batte tutta la vita anche contro il suo re per difendere la libertà, quello è un grande pensatore aperto e dinamico, e io sono in quello d'accordo con Kant. Se tu lotti per questo sono d'accordo con te, ma non con la rappresentazione che tu dai della allora, Chiesa. Sì, no, fammi rispondere, perché è una cosa troppo urgente, scusa, se non ti dispiace. No, perché no. Se no veramente non mi ricordo più. No, che cosa hai fatto? Che cosa ha fatto? Scusate, no, faccio prima così. Sì. Perché Urbato Pellegrino mi accusa di questo, mi dice, sia chiaro, io sono molto felice che un monsignore illustre come Don Ubaldo Pellegrino abbia dichiarato pubblicamente che si può essere cattolici e cantare. Per me è una cosa meravigliosa questa qui, come penso che uno rosmignano può essere tranquillamente cattolico, trascottista, eccetera. Sono, però, la cosa mi piace molto Don Ubaldo. Ma tu non puoi dire, non puoi assolutamente dire, perché io qui adesso ci porto documenti, tu non puoi dire che la rappresentazione che ho dato io, cioè di un mondo cattolico, di una chiesa cattolica che ha favorito Kant contro la scolastica, è falso. Io ti porto innanzitutto, non soltanto, badate bene, il fatto che l'11 giugno 1827 la critica della ragion pura è stata messa all'indice. Questo è un fatto. Secondo fatto, 4 agosto 1869, non un cattolico qualsiasi, non un professore qualsiasi che sta in qui con l'università, ma Leone XIII, con gli Eterni Patris, io vi cito le cose, vi leggo i brani, due brani, ecco, dice uno di Leone, voi tutti, penso che questo è un papa, non è uno di noi qualsiasi che sta a insegnare così, in qualche modo, ripeto, voi tutti, venerabili fratelli, veramente esortiamo a rimettere in uso la sacra dottrina di San Tommaso e di propagarla il più largamente che far si possa, a tutela d'onore della fede cattolica, a tutela d'onore della fede cattolica, a bene della società e all'incremento di tutte le scienze. Dei rimanenti maestri letti da voi con saggio discernimento si studiano di far penetrare negli animi dei discepoli la dottrina di San Tommaso d'Aquino e mettono in luce la sodezza e l'eccellenza di essa preferenza di tutte le altre. Le accademie da voi fondate o che si fonderanno la illustrino e la difendano e se ne valgono per confutare gli errori correnti. E poi andiamo giù in questo dimesso. Era l'Eterni Patris, 879, secolo scorso. Poi ancora, ma si deve dire presente riguardo a Papa Leone XIII, ma padre, queste cose non sono cose, voi, queste sono cose che hanno fatto soffrire un sacco di gente, condannati, ma avete letto le cose, l'episodio tra Bertonier e Blondet, tutto il modernismo, ma dietro non sono mica cose così, sono cose grosse, sono dietro. Dice appunto di sé, San Tommaso, egli, sempre il Papa dice, a guisa di sole riscaldò il mondo col calore delle sue virtù, lo riempì dello splendore della sua dottrina. Non vi è parte della filosofia cui egli non abbia acutamente e solidamente trattata, che delle leggi della dialettica, di Dio, delle sostanze incorporee, dell'uomo e delle altre cose sensibili, degli atti umani e dei loro principi, disputò per modo che non rimane a desiderare né una copiosa messa di questioni, né conveniente ordinamento di parti, né metodo eccellente di procedere, né soldezza dei principi, né forza di argomenti, nell'impidezza, probabilità di dire, né facilità di spiegare qualunque più astuta sua materia. E posso andare avanti in questo modo qua. Poi c'è l'enciclica al clero francese nel 99 e poi ci sta la Pascendi del 7 contro il modernismo che attacca di nuovo Kant e poi c'è il libro di Matteussi e poi tutte queste cose qua. Ora, io so, e poi c'è il Concilio Vaticano I, si è eretico colui che non può dimostrare essere eccetera, ma effettivamente Don Bardo ha ragione sul punto, cioè ha ragione sul punto in cui dice che effettivamente il Concilio Vaticano II, salta il caso, il Vaticano II ha aperto e qui sono d'accordo con te. Ecco, su altre cose che dicevi, adesso penso che basta questo, io ti ho citato questi fatti, ma ti posso citare appunto questo strato del Migliotti, Matteussi, il clero in Francia, addirittura ci fu in Cina per il clero francese, contro il cantismo, cioè sono cose grosse queste, non si può dire che io ho inventato una trappoletta per... No, io sono convinto che la scolastica è stato un grande evento nella storia del pensiero occidentale, San Tommaso è un genio metafisico, però voglio dire, questo non significa che, ho fatto una domanda, cioè la Chiesa effettivamente... Questa scelta è stata una chiesa propizia, scelta buona. Lo facciamo per la politica. La Chiesa fa bene a scegliere questo partito, questi uomini. Lo facciamo per le metafisiche. Non penso che cambi da molto poi, dal punto di vista. Encicliche! Encicliche, vabbè, queste encicliche sono. Queste sono encicliche queste qua. E le encicliche chi le fa? Le fa il birraio o le encicliche? Abbi pazienza. Perché dire la Chiesa cattolica è così. No, io dico questo Papa, questo intellettuale, l'altro Papa, questo qui. E niente? Cosa che ho fatto io, Ubaldo? Vorrei, se mi riesci, a sdrammatizzare un pochino la questione, portando magari dei fatti personali che mia moglie conosce benissimo e che possano essere utili per non solo sdrammatizzare la situazione, ma anche per capire quello. quello che avviene oggi, perché il tuo discorso era stato un discorso storico, i documenti che hai citato evidentemente sono documenti seri che fanno testo, ma a me non interessa tanto il passato, interessa il presente. E allora ecco la prima obiezione di metodo. Hai fatto delle domande alla fine, chiedo scusa, mi sembravano un po' domande da 48, ecco, sarà che io sono abituato da buon kantiano a porre i problemi in tutte le sfaccettature, con molta calma, con molta... Ma dico, domande molto secche, ecco, ora credo che oggi, praticamente resta l'oggi, non il passato, e anche il passato prossimo, queste domande formulate in questo modo... A entrambe le parti, perché porterò due esempi personali che mi riguardano, uno anche recentissimo, non abbiano più senso, anche perché molte cose si dicono perché magari la tradizione ce le fa dire, ma poi non si pensano veramente, poi non sono così importanti di fatto oggi nella vita politica, religiosa, sociale, come in certo qual modo ce le hai presentate. E allora veniamo ai fatti, per vedere se questi fatti si inquadrano con questo discorso generale che ho cercato di dare. Sapete che, non mi ricordo più la data, a un certo punto è uscita la enciclica Laborem Exercens, importantissima, del nostro Papa. E in questa enciclica a me sembrava che fosse stato confuso capitalismo e liberismo. E mi sembrava strano da parte di uno che scolaro di Scheler, perché Giovanni Paolo II, scolaro di Scheler, è kantiano, è sostanzialmente kantiano, e allora io ho scritto alcune cose, cercando di mettere in evidenza il kantismo di Giovanni Paolo II e anche insistendo su alcune critiche, la più importante era questa. Poi, siccome io non sono abituato le mie cose a tenere nascoste nel cassetto, le ho prese e l'ho mandato a Sua Santità. Ho ricevuto una lettera, non di Sua Santità, perché c'è cose più importanti che scrive al sottoscritto, ma da parte del sottosegretario di Stato. Diceva che il Santo Padre aveva gradito molto le cose che gli avevo mandato e mandava a me e alla mia famiglia, mia moglie e testimone, la sua apostolica benedizione. Voglio dire, dico, d'accordo, di due l'una, io le cose le avevo scritte, o nessuno la guardate, buttate là e si scrive, non lo so, non capisco, ma io mi sono fatto l'idea che evidentemente lo spirito, ecco, che anima la comunità ecclesiale e che anima anche, direi, i cattolici in generale, sia leggermente diverso da come in certo qual modo pareva che risultasse dall'insieme del tuo discorso. Ma questo non avviene solo all'interno della Chiesa, avviene anche in altri piani molto importanti. Il secondo fatto è recentissimo. Alla trasmissione Rosso e Nero, una polemica piuttosto vivace tra il rappresentante della Lega Bossi e Occhetto ha detto testualmente che si sentiva hegeliano e quindi progressista, e contrapponeva il suo progressismo, il suo hegelismo al liberismo e al kantismo, testuali parole, di una visione quale pare che Bossi avesse presentato. Anche in questo caso la cosa non mi ha persuaso molto. Ho preso penna e lettera, ho mandato una lettera chiara e precisa a Occhetto, facendo notare come da Kant è nato anche un certo filone socialista, come si parla di un socialista Cohen. Che Cohen assunse quando nell'88 ci fu il processo, siccome si parlava di progressismo, il processo, direi, contro uno che veniva a riguardava l'antisemitismo di un certo personaggio. E Cohen prese posizione contro l'antisemitismo, anche se poi fu sostanzialmente sconfitto nella Germania di allora. Tutto questo fu mandato, è stato mandato, ho ricevuto la lettera della segretaria di Occhetto, perché Occhetto non ha di nuovo tempo, e non solo mi ringrazia per aver appreso queste cose su Kant, ma ci fa un discorso di metodo, ecco, su quello che è progressismo e non progressismo. Come vedete, io sono un po' fuori dalla vostra mischia, perché sono sostanzialmente laico, cioè non è che mi coinvolga più di tanto. Però voglio dire, lo spirito oggi, e sono d'accordo con il signor Pellegrino, è diverso. Le cose ora vanno in un'altra direzione, e che si sia nel versante dei progressisti, ma anche che si sia all'interno della Chiesa Cattolica. Ultima cosa, Popper. E dico, io ho avuto, tu non c'eri, si è parlato di... ho avuto rapporti personali con Popper. Grandissima persona, perché quando gli ho scritto, quando gli ho mandato il mio lavoro e facendo vedere il suo cantismo, ha detto: chi sono io per essere paragonato a Kant? Quindi il tuo pop scrive testualmente in tedesco e anche tradotto in inglese dalla segretaria, ma lui scrive a mano in tedesco, avendo un grossissimo rispetto di Kant. E quando gli facevo notare che in fondo anche il Kant, il concetto di fermitum c'è, e che se non avesse studiato il Kant soltanto della critica della giuntura, ma l'ultimo Kant, forse a certe affermazioni contro Kant non sarebbe arrivato, ha detto che dalle cose che gli erano state mandate, tradotte in tedesco dall'amico Inske, dice: ich habe viel gelernt, ho imparato molto, se poi ne abbia fatto tesoro o meno, la cosa a me non interessa un bel nulla, non posso dirtelo, non mi interessa, ma ecco, ma quello che volevo dire con questi due esempi è che oggi io penso, e spero anche, che si viva in un mondo diverso, in cui quello che dici te andava bene, ma prima del 48, beh, oggi no, si dovrebbe respirare in un'Europa grande, in un'Europa libera, con una Chiesa altrettanto libera nel suo campo, come gli altri nel proprio, uno spirito di libertà profonda, mi spiego? Per cui, e mi pare che la Chiesa, dalle testimonianze personali che io ho, sia su questo piano, se le lettere che ho ricevuto da un'altra autorità cardinalizia hanno un valore. Se non hanno nessun valore, allora le prendiamo e le buttiamo nel cestino. Allora, devo rispondere subito, sì, meglio subito. Voglio dire, io sono d'accordo, questo mi fa solo piacere sapere, insomma, che in sostanza le cose che ho detto, documentate una per una, le potrei anche leggere di più, che stanno svanendo oggi. Ma forse tu sei più fortunato di me. 2 anni fa io ho partecipato a Laterano, in sala lateranense, a un dibattito su queste cose, a Laterano. 2 anni fa, mi pare, sì, più o meno 2 anni fa. Laterano, ieri, quindi l'americano, mi disse che io, difendendo queste cose, ero sostanzialmente un eretico o cose del genere, insomma. Voglio dire, quasi che tu sei stato più fortunato. Ma comunque mi fa piacere di questo. Io voglio raccontare allora un episodio anch'io. Quando studiavo filosofia a Perugia, venne proprio Lavagna Novighi a fare una conversazione sul libro che era uscito di Ryle, proprio lì per lì Ryle, Lo spirito come comportamento, The Concept of Mind. E 2 o 3 di noi appunto andammo a trovare la professoressa Lavagna Novighi la mattina presto, dopo la conferenza, la mattina presto, e parlavamo di queste cose, di queste cose del genere. E ricordo una frase che per me è stata molto importante. Lei disse: io nel tomismo mi sono trovata bene. Altri si possono trovare bene, come cattolici proprio, in altri orizzonti filosofici. Quindi su queste cose io sono d'accordo. Io non sono d'accordo con tutti quelli che pensano che un tipo di filosofia, 4 frasi, 5 frasi, abbi pazienza, io ho scritto 5 anni fa un libro su queste cose qua, documentando riga per riga, libro per libro, Gloria o mistero della metafisica cattolica italiana, dove ci sono dei nostri colleghi, dei nostri amici, qua hanno scritto e sostenuto che senza la loro dimostrazione di discorso metafisico breve che popola l'universo di queste entità, il cristianesimo è una favola. Allora io vi chiedo se prima della scolastica o prima di questi nostri colleghi, quello che anche il cristianesimo erano tutti pazzi. Io vi chiedo questo, vi chiedo. Voglio dire, allora non la prendete con me, perché queste cose Ubaldo, quello conosce meglio di me, quindi non te la prendere con me. Eventualmente sono d'accordo con questa situazione, mi piace questo qui. Però voglio dire, quelle cose che vi ho citato ci stanno, e non sono alcune molto lontane da noi, sono fatti di questi ultimi anni. Sì, era questo, non avevo altro da aggiungere su questa cosa qua. Ecco, volevo sapere quanti erano ancora gli interventi. Ecco, 3. Ecco, io li prenderei tutti e 3, cominciando da qua, andandosene in fondo. Galvan. Se può venire, sì. Ecco. Galvan. No, ho capito che era. Professor Galvan. Cosa? parla per ultimo, a questo punto sono le 6:30, sì. Si prendono tutti e si dà una risposta finale. Tiene un altro foglio. Ah, non posso parlare, non posso parlare. No, se ne applica alla fine. Va bene, ce l'ho, va bene. Ecco, Galvan, professor Galvan. Io vorrei fare un breve intervento e sostanzialmente una domanda abbastanza importante, mi pare. Perché io voglio dire già subito in partenza, io sono d'accordo almeno su una cosa con Antiseri, cioè sul fatto che il modello scolastico non mi sembra più sufficiente per rispondere alla problematica tra fede e ragione. Storicamente si è sviluppato un secondo modello, è il modello sostanzialmente kantiano, ed è il modello a cui si ispira Antiseri. Ed è un modello, io lo dico chiaramente, anche se magari un po' in maniera provocatoria, è un modello fideistico. E in effetti il modello kantiano è il modello secondo il quale c'è una netta separazione fra il campo della scienza e il campo invece della fede. Ecco, la domanda che io vorrei porre è questa, ma è possibile al giorno d'oggi ritenere che non si possa uscire anche dal secondo modello? Io ritengo che in effetti l'evoluzione scientifica ed epistemologica ci forzi nella direzione della costruzione di un terzo modello, che è ancora tutto da scoprire. Cioè un modello che in qualche maniera faccia, per così dire, presa anche su quelle che sono le risultanze epistemologiche che vanno al di là di Popper. E non dimentichiamo che c'è uno sviluppo dell'epistemologia anche post-popperiana e da questo punto di vista non si può più fare quella netta distinzione fra il piano del sapere e il piano della fede. Per così dire, ci sono dei presupposti di carattere fideistico che stanno già all'origine della scienza stessa. E allora, se in qualche maniera noi riteniamo che la scienza sia un discorso almeno condizionatamente fondato, la stessa cosa dovremmo dirlo anche per quanto riguarda un discorso razionale da fare riguardo al tema generale della trascendenza. Ecco, mi pare che questa sia la questione decisiva. Grazie. Marco Longo. Ecco, io intervengo, ma non in quanto interpellato, in quanto editore qualsiasi. Più volte interpellato. E la prima mia osservazione è un'osservazione che riguarda il dibattito che l'amico Dario ha suscitato, che è un dibattito di carattere, diciamo così, teoretico generale, no? Di fondo, va al di là del tema del convegno in senso stretto e va al di là anche del discorso Kant in fondo, no? La mia osservazione è semplicemente questa. Tutti noi cerchiamo di dare delle ragioni e tutti noi, bene o male, in qualche modo, come diceva il buon Aristotele, facciamo metafisica, in un modo o nell'altro. Mi domando se in qualche modo questa affermazione, in qualche modo di carattere quasi fideistico, come diceva, eccetera, non sia anch'essa uno dei modi di esprimere l'originaria istanza metafisica che comunque è presente. E io vorrei ricordare questi passi di cui tante volte l'amico Dario fa menzione nei suoi testi per dire semplicemente questo. Quando si dice che una fede religiosa diventa favola se in qualche modo non si aggancia ad un discorso anche di carattere filosofico, metafisico, di si vuole, si dice esattamente questo, che l'uomo, in quanto può credere, non può evitare di essere uomo e quindi di interrogarsi anche razionalmente su questo aspetto. Ma lasciamo stare questa dimensione sulla quale naturalmente con molta pacatezza, con molto dettaglio e precisione ci si potrebbe ben accordare, certo, al di là, certo, dello stile irruente che è dovuto alla dramatis persona di cui il buon Dario spesso si sente investito. Io volevo fare un'altra domanda molto semplice, che è collegata anche a questa, ma insomma ha un carattere più che altro storico. Questa diffusione del cantismo tra i cattolici tedeschi, a tuo avviso, corrisponde ad una vera comprensione del pensiero di Kant oppure no? Ecco, è questo che a me interessa, perché dopo l'altra discussione è tutta da vedere, insomma, io credo che nemmeno quelli che hanno accusato Kant con altrettanta irruenza l'avessero capito, ma dubito che l'avessero capito anche costoro. Almeno a questo periodo. Chiarissimo, sì, sì, chiarissimo, chiarissimo. Professore, se... vieni, e poi andiamo in ordine e poi sino in fondo. E poi dobbiamo chiudere perché altrimenti spengono le luci e rimaniamo qua. Sono chiamato in causa in quanto padovano, ma non sono metafisico, quindi sono chiamato in causa in maniera solo parziale. Soft, ecco. Sono storico, però quindi ecco, credo che tutti i problemi posti da Antigeri vadano in qualche modo collocati storicamente. Certo. Io credo che la condanna della filosofia di Kant nella seconda metà dell'Ottocento e poi l'atteggiamento nei confronti della filosofia di Kant nella prima metà del Novecento, specialmente in Italia, abbia rappresentato un errore grave e che non va nascosto. Si sono fatti i nomi di Olgiati, il quale insegnava a cercare l'anima di verità in ciascuna filosofia, però era convinto che una filosofia esistesse e fosse quella di San Tommaso. Ricordo il primo volume di Olgiati, L'anima di San Tommaso, ed era quello il punto di riferimento, questo sistema che poi non so quanto storicamente corrispondesse al tomismo storico, che veniva presentato come punto di riferimento con il quale confrontare le diverse filosofie storiche, nelle quali, ecco, si gemelli, si potevano trovare dei punti di verità, però ecco, questo quindi sono d'accordo. Volevo fare alcune riflessioni invece sulle osservazioni, prima sulla vicenda dei kantiani cattolici tedeschi di fine Settecento. Lì probabilmente io sono stato assente il primo giorno e quindi non ho ascoltato la relazione del professor Hirske, che ha fatto riferimento esplicito al kantismo di Jena, cioè una certa immagine di Kant che poteva portare, poteva far pensare ad un Kant rivoluzionario, ad un Kant giacobino, eccetera. Ma credo che questo momento sia finito per ragioni politiche, per ragioni politiche, non perché al kantismo si preferisse il tomismo, diciamo, la cultura ecclesiastica cattolica, non so in Germania, ma certamente in Italia, era dominata nei seminari e dominava la filosofia sensista. Gli avversari italiani di Kant del primo Ottocento non sono dei tomisti. Padre Soave è un sensista. Ecco, quindi credo anche che la messa all'indice delle opere di San Tommaso si giustifica delle opere di Kant. Tommaso ha condannato dal vescovo di Parigi, nel 1270. fossero dovute anche quelle a ragioni più di carattere politico. Ecco, poi anche l'Eterni Pratis. L'Eterni Pratis, secondo me anche quella fu un errore, però forse anche lì, se storicizziamo, si trattava di introdurre nei seminari una filosofia che sostituisse in fondo il sensismo che ancora continuava ad essere la filosofia di fondo, adesso magari ai tempi della Eterni Pratis non ancora, ma non più, ma per tutta la prima metà dell'Ottocento. Sì. Ecco, così anche, diciamo, le vicende probabilmente della metafisica classica nel periodo fra le due guerre, o anche immediatamente dopo la guerra, Olgiati, Bontadini, eccetera, vanno anche loro forse compresi, perché bisogna avere in mente l'interlocutore unico che loro avevano di fronte, cioè l'attualismo gentiliano. Ecco, quindi diciamo, questa contrapposizione radicalizza le posizioni e porta ad assumere quelle posizioni rigide di chiusura che tu hai criticato. Ecco, basta. Ecco l'ultimo intervento. Questo è. Chiedo venia i 3-4 minuti soltanto, perché vedo che siamo alla fine. Io sono un semplice studente, quindi non ho il privilegio di essere professore, ma soltanto quello, essendo qui facendo un intervento a braccio, di non subire una votazione. Quindi ho anche la libertà di dire qualche cosa che non potrei dire se fossi sotto l'interrogazione del professor Baldini. Io volevo soltanto fare un paio di domande. Ho voluto andare a studi, non dico antichi, ma che risalgono a qualche decennio fa, e ho trovato una definizione di un teologo e filosofo di un certo nome, almeno fino al 1950, di Sertians, il quale nel suo Cristianesimo e Filosofie ha dato un suo giudizio nei confronti di Kant. E lui dice che il filosofo e il cristiano combattono una lotta oscura in Kant. Egli separa, dice, radicalmente la ragione dalla fede, pur scrivendo nella sua religione, nei limiti del sapere, nei limiti della semplice ragione, pur scrivendo che la pena che ci diamo per scoprire nella scrittura un significato che sia in armonia con gli insegnamenti più santi della ragione deve essere considerato persino come un dovere. Inoltre Kant ha scritto in un trattato sul fine di tutte le cose alcune considerazioni che rendono un commosso omaggio alla religione cristiana. Questi avvicinamenti, però, dice il Sertians, non fanno di Kant un cristiano autentico. Dico questo perché il tema nostro è Kant e la religione. Dice Sertians, egli identifica in fondo la religione con la morale, trascurando ciò che nella prima è l'essenziale nella religione, l'adorazione, la pietà, l'unione spirituale per mezzo del culto. La religione, che è il rapporto bilaterale, chiamata risposta, promessa speranza, sfugge al moralista ombroso, diffidente rispetto alla metafisica e al misticismo. Il pensiero di Kant, conclude Sertians, è certo impregnato di cristianesimo, ma è un Kant che crede ad un Cristo eterno, più che un Cristo storico. E in ciò, dice Sertians, riconducendosi al cristianesimo, al modo, dice lui, delle eresie gnostiche di Valentino, Carpocrate e Marcione. Ma tant'è, conclude, Kant precede Schelling e Hegel. Quindi, in conclusione, potete voi dire che come direi io, nella mia modesta valutazione della cosa, che Kant è un cristiano, filosofo grande, ma non un grande filosofo cristiano, perché solamente non può non essere cristiano. Perché Kant ha fede nella ragione, ma non ha propugnato le ragioni della fede. E poi perché ha enunciato e si è fermato al sacro come categoria a priori, però con il merito di aver aperto, la mistica come categoria a priori, cioè ha aperto la strada a Rudolf Otto, tutto sommato, perché mentre uno fonda a priori nel razionalismo, Kant, Otto però fonda il suo a priori nel misticismo. C'è un'ultima, un minuto, va bene, un minuto, e poi chiudiamo, Dario, 5 minuti, 5 minuti, 10 minuti. 5 minuti, mi fanno 100 domande, devo fare... Vabbè, non so se ho travisato a... Professor Girotti, sentendo... Padovano è anche lui, quindi però di didattica della filosofia, quindi uno dei pochi che insegnano a insegnare la filosofia. Se si può. Se si può. Se si può. Non so se ho travisato a sentire, ma credo che le domande poste, se considerare il modello scolastico o il modello kantiano sia in alternativa, credo che da quello che io ho capito, ma forse potrei aver travisato, lo dico per la terza volta, e vorrei una risposta su questo, mi sembra che non si esca da questa domanda, che sia una domanda pleonastica, perché... lei rifiuta da quello che io ho capito, il modello scolastico e si pone e dice: ma proviamo a porre allora il modello kantiano. Ma a un certo punto della sua relazione lei presenta il postulato dell'esistenza di Dio come una griglia dentro alla quale Dio viene inserito nell'uomo e non esce dall'uomo. Allora pone la domanda: può l'uomo andare a cogliere Dio? Sembra quasi che lei ponga già un limite in Kant quando postula l'esistenza di Dio, perché resta all'interno dell'uomo e non viene fondata la sua esistenza ontologica. Tant'è che poi ci sono le prove ontologiche che Kant rifiuta. Allora, posta in questi termini, non si esce. Forse allora mi collego al discorso che faceva Monsignor Pellegrino prima, citando Loggiati: se noi rapportiamo il postulato dell'esistenza di Dio alla critica della ragion pura, forse capiamo allora l'apertura. Certo. Se noi lo consideriamo come una griglia dentro la quale Dio non viene posto se non dall'uomo dentro l'uomo e resta solo nell'uomo, e poniamo l'alternativa nella filosofia neoscolastica, la quale afferma l'esistenza di Dio in quanto tale non dentro l'uomo ma fuori dell'uomo, se noi rapportiamo allora la critica della ragion pura al postulato dell'esistenza di Dio, allora comprendiamo l'esigenza di trascendenza dell'uomo, cioè l'apertura verso Dio. Allora fondiamo Dio anche all'interno del discorso kantiano. Grazie. Bene, chiudiamo. Allora, è stato importante, fatto domande interessanti e ampie. Io sicuramente risponderò in modo poco adeguato, però pazienza, insomma. A cena, continui. Pellegrino, Micheli, Galvano. Allora, io dico una cosa, vorrei cominciare da questa cosa che diceva sempre il professor Girotti. Non si possono staccare le due critiche, evidentemente. Quando nella prefazione della seconda edizione della ragion pura Kant, io ho dovuto limitare il sapere per fare spazio alla fede e poi seconda teoria. Però la cosa che veramente a me interessa, subito anche perché uno può pensare perché Antisi mi ha studiato per queste cose, perché Baldini ci l'ha portato, perché ha trovato questo saggio di Stapp, di Royce, perché ne parlava con Michele in Inghilterra, eccetera. No, io ciò, devo dire, in 30 anni che sono venuto al mondo universitario, che cosa ho trovato? Una cosa che mi ha continuamente irritato. È stata ciò che mi ha irritato, sia nel mondo, lo dico perché si sanno queste cose, non è che sono cose che si dicono appunto, che sia in campo marxista, sia in campo cattolico, sono le presunzioni. La presunzione di sapere ciò che effettivamente poi si vede molto fragile nelle linee di conoscenza. Dico, assolutismi. Allora cosa è successo? Se uno, e io ho vissuto il mondo da positivista, perché sono stato allievo dell'ultimo da positivista che stava in Europa, cioè di Berafon Jungos, l'allievo di Schlick, se non di Schlick a Vienna, se tu accetti il principio di verificazione del positivista, che cos'è la fede? È un semplice non senso. Se tu sei un freudiano convinto, che cos'è la fede? Ah, desiderio matrimonio del padre. Se tu sei un dialettico marxista, cos'è la fede? È alienazione. Se tu sei un hegeliano, cos'è la fede? Sapere primitivo. E così di seguito. Cioè, quello che ho visto io, che non è, vale bene, non sono le filosofie analitiche sostanzialmente, l'epistemologia popperiana, a negare la fede. Sono state presunzioni di assolutezza, presunzioni metafisiche. Cioè, ecco perché quando io scrissi quel libro, perché la metafisica è necessaria per la scienza, da non sapere la fede, la cosa più scandalosa, ma c'è un nocciolo di verità. In questo nostro mondo, in questo mondo, io queste cose le ho vissute, perché dentro l'università noi abbiamo avuto freudiani, abbiamo avuto marxisti convinti, abbiamo avuto neopositivisti. Io con questi ho dovuto fare anche i conti, alcuni sono anche i miei maestri sono stati. Voglio dire, che cosa? La fede era impossibile. Perché io torno a Kant, dopo Popper, eccetera? Perché Kant veramente limita il sapere e fa spazio alla fede. È questo il mio innamoramento kantiano attraverso Popper e gli altri. Quindi, se uniamo le due critiche, sono d'accordo, Cidotti. E veniamo adesso all'onorevole. L'onorevole dice, come ti chiama l'onorevole? Scusa, non mi ricordo, sai. Sono onorevole. Sì, dice, Sertiangeli dice, ecco, per Sertiangeli Kant non è un filosofo cristiano, eccetera, eccetera. Per carità, sono frasi, tesi che si possono sostenere. Poi c'è Fourier, una cosa anche questa un po' esagerata, quando Fourier dice che Kant è l'ultimo dei padri della Chiesa. Cioè, guarda bene, questi giudizi, se noi non li motiviamo attraverso tesi ben motivate, documentate, diventano frasi. C'è un prete amico mio, umbro, di Perugia, che mi dice sempre, dopo Cristo, Kant. Marco Lillo direbbe Wolf, però per questo poi amico mio è proprio Cristo Kant. Va bene, dice, ma perché, dice Giuseppe, perché dopo Kant viene fuori Hegel? Non possiamo far pagare ai padri le colpe dei figli, insomma, voglio dire, anche dopo Smith e dopo il grande pensatore liberale, avendo Smith accettato, voi sapete, la teoria del valore del lavoro di Ricardo, e Marx sulla teoria del valore del lavoro ha costruito il marxismo. Vabbè, insomma, adesso non possiamo dire che tutta la colpa del marxismo viene fuori da Smith e da Ricardo, diciamo. Va bene, e vengo adesso a Micheli. Micheli dice, giustamente qua, bisogna storicizzare queste polemiche. Probabilmente io ho dato l'impressione di uno scontro eterno tra... Però guarda, lo scontro c'è stato e ancora c'è. Perché se voi fate alcuni ambienti sindacali di frequentarli, questa cosa c'è. Nessuno parla forse del tommismo, nessuno lo butta fuori, questa filosofia scolastica non ha forza d'attacco. Certamente contro il marxismo non è stata questa filosofia che ha combattuto, è stata molto più forte Popper. Adesso sto pubblicando un volume Popper in China, Popper in Cina, tutti questi cinesi che parlano di Popper, dico io, certo non parlano di scolastica contro il marxismo, è stata la scolastica. Perché con tutti i grandi meriti che ha, per esempio, penso che la tradizione francescana nella scolastica scotista è enorme, è grandissima, per esempio. Vabbè, perché sono fideisti, perché sono appunto volontaristi, eccetera, eccetera, evidentemente. Bene, quindi sono d'accordo con te, Michele, cioè che la cosa va effettivamente, ecco, storicizzata. E sono anche d'accordo sul fatto che effettivamente questo kantismo cattolico tedesco, e qui sono d'accordo anche con Nietzsche, non venne spazzato via perché c'erano ragioni teoriche, ragioni politiche. Cioè, venne fuori la rivoluzione francese e i principi tedeschi, cosa disse, no? La famosa immagine che circolava, no? Cioè, Robespierre taglia la testa al re e Kant taglia la testa a Dio. Ma Robespierre è unito con Kant, quindi facciamo fuori Kant. E tutto il kantismo venne abolito, cioè Kant venne abolito dalla Germania cattolica e anche dalla Germania protestante, non è che la comune su questo voglio dire. Però guardate, io sono spesso uno va a cercare grandi ragioni per grossi eventi. Io nella vita mi sono spesso accorto che anche eventi infausti, cattivi o buoni, eccetera, hanno ragioni molto più modeste. Piccoli misteri umani, invidie, cosa c'è. Supponiamo che non fosse salito al soglio pontificio Papa Pecci. Papa Pecci era un tommista. Suo fratello Giuseppe era un tommista. Questo divenne Papa e fa la rotella di Patris. Supponiamo che invece di Papa Pecci fosse salito al soglio pontificio un fautore di Sant'Agostino. Forse avremmo avuto tutta questa storia? Forse no, probabilmente no. Probabilmente no. Cioè, voglio dire che spesso le cose si spiegano con ragioni molto più semplici. Se saliva solo il pontificio, un francescano scotista, forse le cose non erano così. può dire, non per voglio dire, eliminare le cose della genesi storiografica, ma può darsi che esistono delle molto più modeste, molto più piccole, per spiegare questi grossi eventi che sono accaduti dentro appunto la Chiesa Cattolica. Ma comunque mi dice, in fondo, cosa fate voi fedelisti? Siete mica così nascosti, clandestini? Aspetta, fanno metafisica. Ma, dice Marco Longo, un'altra cosa, non significa attaccare, cioè collegare la fede cristiana ad una metafisica. Il problema è un altro, cioè Marco Longo dice in sostanza c'è un problema inalienabile, e il problema è qual è il senso della vita. Questo, dice lui, è la metafisica che va bene per i cristiani. D'accordo con te, sono d'accordo su questo punto, però io ho letto ultimamente, è uscito spesso, quel saggio di Bobbio, no? Che ha fatto la Comunità Cattolica, molto bella, quando Bobbio dice... Contenuto delle secolarizzazioni, eccetera, eccetera, c'è un fatto che l'uomo non può eliminare questa inestirpabile domanda: che senso ha la vita, che senso ha il dolore? Il dolore è inutile, la sofferenza umana, la sofferenza innocente, che senso hanno queste cose? Sono d'accordo con questo, ma in questi casi che ho citato, non è che si dice c'è un problema e filosofico, la grande domanda, e la fede cattolica, la fede cristiana è una risposta. No, si dicono ben altre cose, tu lo sai meglio di me. Si dice che senza questo tipo di metafisica che io metto a supporto della fede, la fede non è più che una favola. Si dice questo. Ora tutti dicono questo, d'accordo, ma io ti posso documentare tranquillamente che hai detto queste cose, e l'ho fatto anche in un libro che dice queste cose. Allora, veniamo adesso a Galvani. Galvani dice, la fede è ragione. Il modello scolastica fede cristiana non regge più. Poi dice appunto Galvani, non regge nemmeno questo modello Kant che apre la fede e la fede. C'è qualcosa di più. Perché dice Galvani c'è anche un filismo della scienza. È vero questo, ma questo è portato a bambino, non a tuo. Perché è chiaro che, vado a vedere, chi fa scienza ha fatto una scelta irrazionale della ragione. Dice René Dubois molto tranquillamente, perché? Chi ci obbliga a guardare il mondo con gli occhi di Galileo per capirlo e dominarlo, invece che con gli occhi di San Francesco di Lao Tse per contemplarlo? Chi ce l'obbliga? Nessuno. Di fatto l'Occidente, per ragioni comprensibili, irrecuperabili e indagabili, l'Occidente ha scelto tra i valori da incrementare anche la verità scientifica. Ma tutto questo, Sergio, tutto questo, tu capisci, che porta acqua al mulino, addirittura l'attività più razionale che noi pensiamo, c'è dietro scelte irrazionali. Sì, ma io ti voglio dire, se io dico invece faccio un ragionamento opposto, dico, se addirittura la scienza ha un fondamento irrazionale, una scelta di fede, chi proibisce di fare. Ma va bene, chi è all'ateo? Non dico all'ateo che lui è sciocco, che dico un po'. Io dico all'ateo un'altra cosa, se c'è la cacciatore dice un'altra cosa, cioè a cacciatore io dicevo, l'ho detto stasera, che tu sei libero di essere ateo, ma tu non puoi dire che comunque non è ateo, non è scienziato, non è razionale, tutto razionale. L'ateo e il credente cristiano, non è che uno, ripeto, l'ateo è uno scienziato che ha le ragioni forti, no? Scientifiche, e il credente è uno che fa scelte irrazionali. No, signori miei, perché l'asserto che Dio non esiste, nessuno l'ha provato. E come diceva Gisson, l'ateismo è veramente difficile. Cioè non è che, ripeto, che l'ateo, ecco una persona di direzione kantiana, l'ateo è uno scienziato e credente è un irrazionale. No, sono due scelte di fede. Allora, cacciatore non può dire a me, appunto, che questa scelta fosse sbagliata e quella ateo. No, se ho capito bene, io insomma, ecco, diciamo così. E vengo adesso a Pellegrino, che ecco, l'ultima cosa che dico, e so che siete stanchi anche, però io non sono uno studioso di Kant come lo è Micheli, come lo è Cesare e tanti altri di voi. Io sono un innamorato di Kant. E la via grattato su questi kantiani cattolici tedeschi per me è stato un immenso piacere. Trovare questi sacerdoti, questi religiosi gesuiti, appunto premonstratensi, cappuccini, benedettini, che diffusero Kant in quel periodo, per me è stata veramente una specie di consolazione personale. E questo perché? Perché adesso, qui dico, va bene, può darsi pure tutta ragione, che questi non avevano capito bene Kant, però c'era un nocciolo di fondo, dal punto di vista filologico, però c'era un nocciolo di fondo, cioè Kant era colui che, mettendo limiti alla ragione, eliminava l'ateismo, il fanatismo, l'idealismo, i pensatori, cioè faceva spazio alla fede. Bene, Questa situazione io la vedo oggi nel mondo contemporaneo, perché qui Sergio dovrebbe essere d'accordo con me. Cioè, se noi andiamo a guardare le punte più avanzate della filosofia teorica contemporanea, è un kantismo riveduto. Che cosa fa, ecco qui certamente, che cosa fa Popper con la sua epistemologia fallibilista? Un primato del teorico fallibile. Cioè Popper ha portato grandi e forti, badate bene, argomenti per dimostrare che la scienza, badate bene, è un'attività razionale e fallibile. È fallibile. Andiamo a vedere Kelsen, vi ho detto, Kelsen, vi ho detto, che cosa ha fatto Kelsen? Kelsen ha passato una vita per dimostrare, badate bene, che tutti i sistemi normativi, cioè sistemi etici e giuridici, in fondo poi, salendo da norma a norma, arriviamo alla fondamentale, queste new norme arriviamo, e queste sono fondamentali perché fondano le altre norme, ma esse non si fondano su niente, sono libere scelte di coscienza. Vede la matematica, Hayek, quando Hayek dimostra sostanzialmente che il futuro, contro tutti gli storicismi, no? Che le filosofie della storia, che il futuro è imprevedibile, che il futuro è imprevedibile, e Hayek che dice in sostanza questa, perché è imprevedibile anche per il fatto che, guardate bene, è impossibile, come dice Popper, costruire un autoprotettore scientifico, e quindi il futuro è veramente imprevedibile. Ma da questo punto dice Hayek che questa fallibilità umana e questa imprevedibilità del futuro, il fatto che il futuro non è nelle nostre mani, dice Hayek che è un agnostico, ecco, dovrebbe combaciare molto con la tradizione cattolica di un uomo fallibile, no? E contingente. Cioè, se noi andiamo a guardare, lo ripeto, Gadamer con l'ermeneutica, cioè storicizia di a priori, e ecco, finisco subito, storicizia di a priori, Gadamer, e cosa fa Martin col pensiero debole? Fa una semplice conseguenza da Gadamer. Noi vediamo il mondo attraverso il linguaggio, le categorie linguistiche sono cose epocali, che vagano di epoca in epoca e quindi mutano, e dunque non ci può essere un fondamentum in concussum, questo è il pensiero debole, va bene, è una conseguenza di Gadamer. Cioè, se vediamo, allora benissimo, l'epistemologia, e quella post-popperiana ancora più accentuata, l'ermeneutica, la filosofia del diritto con Kelsen, Hayek, se guardiamo queste cose, le punti più avanzate del pensiero contemporaneo, va bene, sono prove fortissime di fallibilità, prove potenti di impotenza. Cioè, cosa le conquistiamo in qualche modo? Quello che diceva San Tommaso, cioè la contingenza umana. Quest'uomo non è Dio, non può essere Dio. E questo è Kant. Quest'uomo non è Dio, non può essere Dio. Io ho dovuto porre limiti al sapere per fare spazio alla fede. Questa è la ragione per cui io, che non sono uno studioso tecnico di Kant, ecco, sono appunto un innamorato di Kant. Spero che in qualche modo, essendo un innamorato, non un tecnico, non abbia fatto più del male a Kant e a voi altri. Vi ringrazio. Vi ringraziamo.